L'attuale collocazione delle persone presso il centro di permanenza temporanea di Agrigento è del tutto improprio, del tutto contrario alla legge e alla Convenzione di Ginevra, in quanto il centro di permanenza temporanea è un centro che la legge prevede per eseguire gli allontanamenti, quindi per eseguire le espulsioni di cittadini stranieri che non hanno i requisiti per rimanere in Italia o si ritiene che non abbiano. Mi preme solo far sottolineare che in nessun caso queste strutture dovrebbero essere utilizzate per i richiedenti asilo. Siamo in una situazione appunto nella quale veramente di grande confusione, data anche dal fatto che questa parte della legge Bossi-Fini non è entrata ancora in fase operativa a causa della mancata emissione del regolamento che il governo ha annunciato aver approvato ma non ancora pubblicato proprio venerdì scorso. Quindi veramente noi abbiamo la vecchissima legge che non ancora completamente attuata, che appunto intendo la Bossi-Fini, quindi veramente una situazione molto molto molto incerta. Quello che sappiamo è che le persone sono trattenute all'interno di un centro di permanenza temporanea e questo non è possibile, nel senso che è un centro solo per eseguire le espulsioni, quindi o sono stati colpiti da un provvedimento di espulsione, ma questo è incompatibile con la domanda di asilo, oppure se hanno una domanda di asilo dovranno essere rimessi in libertà e accolti casomai presso un'altra struttura aperta, dove la domanda potrà poi proseguire il suo iter. Oggi quindi staremo a vedere se effettivamente se le persone verranno rilasciate oppure no. Nel caso non dovessero essere rilasciate, c'è un problema credo di compatibilità fra la domanda e il decreto di espulsione evidentemente. Nel caso in cui verranno rilasciate, cosa potrà succedere? In teoria potrebbero aspettare anche un tempo lunghissimo, perché le convocazioni presso la Commissione Centrale si attende anche un anno. È però probabile, perché il Ministero ha già fatto sapere di muoversi in questo senso, che vuole una audizione, per così dire, speciale da attuarsi in loco, quindi manderebbe la Commissione Centrale in loco per ascoltare questi 37. Se penso che ci sono migliaia di persone che aspettano mesi e che questi 37 dovrebbero avere un'audizione veloce per motivi evidentemente esclusivamente di attenzione, per così dire, politica su questo caso, direi subito che insomma non si tratta di un'operazione molto corretta, nel senso che per l'appunto non vi sono ragioni di emergenza data dal numero del fatto di avere un'audizione particolare. Quindi io ipotizzo a buona ragione che si voglia fare un'audizione in loco in tempi brevi esclusivamente per risolvere, per così dire, la vicenda. Non vorrei che nel clima così teso e così conflittuale che si è venuto a creare in realtà vi siano anche degli intenti esplicitamente punitivi, per essere molto esplicito, insomma, cioè si tenti di dare un'immagine di queste persone come falsi richiedenti asilo, magari sostenuto dal fatto che vengono da paesi magari non tutti dal Sudan o hanno dato versioni anche false rispetto alla provenienza, cosa che può avvenire per moltissime ragioni e non necessariamente data dalla cattiva volontà, da problemi linguistici, da problemi di paura, dal fatto che le persone spesso riferiscono quello che i trafficanti hanno detto loro di riferire.